Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan. Quella odierna, la numero 613, è una puntata speciale, interamente dedicata agli esseri viventi non umani, fonte di ispirazione nella musica classica. Ci sarebbe piaciuto trovare compositori così sensibili al tema antispecista da avergli dedicato grandi opere, ma nella maggior parte dei casi gli animali sono citati come metafore delle caratteristiche degli uomini. Dobbiamo tenere presente che anticamente poca era la consapevolezza su questo argomento. E vogliamo pensare che nella loro grande sensibilità, molti degli artisti che oggi citiamo e che hanno saputo descrivere così egregiamente con le note gli animali non umani, se fossero vissuti in questa epoca, l'avrebbero vista come noi. Il valzer opera 64 numero 1 in re bemolle maggiore, conosciuto anche come valzer del cagnolino o valzer di un minuto per la brevità di esecuzione, è una composizione per pianoforte realizzata da Frédéric Chopin nel 1846. Notò il suo cagnolino Marquise che si rincorreva la coda e ciò gli suggerì di comporre un brano che imitasse il veloce movimento del piccolo amato animale. Camille Saint-Saëns compose Il Carnevale degli Animali, un'opera buffa e irriverente per le festività di un martedì grasso, scritta per due pianoforti e una piccola orchestra. Tale fantasia zoologica colpisce immediatamente per la brillantezza della scrittura, ricca di verve e humor, poiché oltre a rendere meravigliosamente le caratteristiche degli animali che prende in considerazione, crea al contempo una parodia dei personaggi dell'ambiente musicale parigino del tempo. L'opera si compone di 14 brani, relativamente brevi e molto suggestivi, ciascuno dedicato ad un animale. Noi ve ne faremo sentire solo alcuni per ovvi motivi di tempo, ma sono quelli che maggiormente ci hanno colpito, qui nella esecuzione del Caradar Bertoldi Ensemble. La marcia reale del leone annuncia l'arrivo del fiero re della foresta che incede regale tra le fanfare della corte. Gli accordi ripetuti di due pianoforti sottolineano la cadenza del passo dell'animale. Il leone si presenta con una melodia dal ritmo marcato e solenne, con i suoi ruggiti mimati dalle scale cromatiche, ascendenti e discendenti del pianoforte e degli archi gravi, in tempo andante maestoso. La musica evidenzia la grande benevolenza del re della foresta e al contempo la sua imprevedibile ira. Nel secondo brano, dedicato a galli e galline, si nota l'abilità espressiva di Saint-Saëns. Ci si trova in un pollaio in cui lo starnazzare degli uccelli domestici è affidato alle acciaccature nelle note ribattute di pianoforti, violini, viola e clarinetto. Ora arrivano gli emioni, asini selvatici velocissimi che galoppano nelle praterie asiatiche. Tale dinamica è raffigurata dalla sequela di arpeggi e scale velocissime dei due pianoforti eseguite all'unisono su e giù per la tastiera, in tempo presto furioso. Non manca un riferimento famoso alla danza delle silfidi di Hector Berlioz che conferisce ironia al brano. Il protagonista ora è l'elefante e contrapposta alle silfidi creature leggiadre ed aggraziate che nel nostro immaginario danno risalto al meraviglioso, grande, goffo e simpatico animale. In una strana atmosfera onirica e a tratti inquietante, i due pianoforti si alternano negli accordi staccati e saltellanti dedicati ai canguri. I due pianoforti ora si sciolgono nei fluidi arpeggi dell'acquario, sui quali si dipana una soave melodia, affidata a un flauto, archi e celesta. Gli strumenti scelti conferiscono briosità al brano, esprimendo musicalmente il suono onomatopeico delle bollicine che si intravedono nell'acqua, in un'atmosfera quasi da sogno. Gli asini sono qui definiti personaggi dalle lunghe orecchie. Il loro ragliare è reso dall'alternanza tra note acute e basse dei violini. Una melodia velocissima del flauto, accompagnata dai trilli dei pianoforti e dai tremoli degli archi, ricorda gli uccellini che tentano invano di librarsi nel cielo azzurro. Qui si crea l'atmosfera frenetica di una voliera. E ora il famosissimo canto del cigno, intonato dal violoncello, accompagnato dagli arpeggi dei due pianoforti, che evoca una atmosfera fantastica e ci pare di vederlo, il leggiadro cigno che danza sull'acqua. Thank you. duetto buffo di due gatti, conosciuto anche come Cat Duet e Comic Duet for Two Cats, è una composizione musicale risalente al 1825, pensata per essere eseguita da due gatte soprano accompagnate da un pianoforte. Pertanto, chi si approccia a questo pezzo deve miagolare secondo una determinata partitura. La composizione viene tradizionalmente, ma erroneamente, attribuita a Gioachino Rossini. In realtà ha avuto origine da una costola del duetto tra Otello e Iago, nell'atto secondo dell'Otello di Rossini. Ma ad avere composto Duetto buffo di due gatti sarebbe stato invece il compositore inglese Robert Lucas Pearson. Il miagolio che introduce il brano è di Sonia, la gattina di casa, sempre presente quando c'è da cantare. Il resto della composizione è eseguito al pianoforte e alle voci miagolanti da Anna Granata. Dedichiamo questo brano al gatto Sandino, amatissimo da tutta la redazione. Dalle Bestiaires di Francis Poulenc ascoltiamo la realizzazione musicale dell'Incedere del Dromedario su testo di Apollinaire. Les oiseaux, gli uccelli, una delle tre melodie senza parole composta da Erik Satie, compositore dalle pose originali e dai comportamenti bizzarri vissuto tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Una delle numerose idee fisse di Satie era il numero 3, un'ossessione mistica. Molte delle sue composizioni sono raggruppate in cicli di tre. Qui ne ascoltiamo una versione eseguita da Marc Durand al pianoforte e cantata dal baritono Bruno Leplan. pour le sentir doux frémissement. Il s'agit de jouer mon rôle, pas un mot quart dès ce moment. Je n'ai droit qu'au bourdonnement. Je n'ai droit qu'au bourdonnement. Chanson la touche, chantons, chantons ma chanson. La peine touche. Orfeo all'Inferno è un'operetta in due atti composta da Jacques Offenbach nel 1858. La trama riprende in chiave comico-satirica la vicenda mitologica della discesa di Orfeo agli inferi per riportare alla vita l'amata Euridice. Nel presentare gli dei dell'Olimpo come meschini e ridicoli personaggi, Offenbach diede all'opera un sapore che a parte del pubblico borghese dell'epoca poté apparire addirittura scandaloso e dissacrante. In quest'aria Giove si presenta ad Euridice in forma di mosca. Nella playlist di questa puntata non poteva mancare la danza dei piccoli cigni dal Lago dei Cigni di Tchaikovsky. Volo del Calabrone, che in realtà sarebbe un bombo, è un brano tratto dal terzo atto dell'opera La fiaba dello zar Saltan, composta fra il 1899 e il 1900, di Nikolaj Rimsky-Korsakov. Il protagonista, Guidon, viene trasformato in un insetto. Il brano è caratterizzato da una veloce e continua serie di note cromatiche eseguite in sedicesimi. L'andamento del brano per onomatopea tenta di ricostruire in chiave musicale il ronzio di un insetto. Inoltre, le note che compongono le singole sezioni della composizione oscillano velocemente in una gamma di altezze, riproducendo il movimento fluttuante ma regolare di un grosso insetto. Sulle note di questo singolare brano vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana tutta la redazione di Restiamo Animali, composta da Lorenzo Guadagnucci, Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Francesco Panier e infine Gianluca Masala e Anna Granata, che hanno curato il sound design e vi hanno tenuto compagnia in questo percorso monografico. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.